489. Sparnocchie. Le cicale mi rammentano le sparnocchie che a prima vista le rassomigliano, ma esaminato bene questo crostaceo ha la forma di un grosso gambero di mare, del peso comunemente di 50 o 60 grammi. È di sapore più delicato della rigusta e come questa si usa mangiarlo lesso. Ma perché non perda sapore, meglio è di arrostirlo in gratella, senza condimento alcuno, e dopo sgusciarlo e condirlo con olio, pepe, sale e agro di limone. Le sparnocchie piccole si possono anche, come i gamberi, infarinare e friggerle così naturali, oppure nel modo indicato per le cicale.